Pronto, Andrea? Sì, pronto, eccomi. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, Andrea Tosti è autore del libro Topolino, il fumetto Disney italiano, edito da Tunue. E forse tu potrai darci veramente una illuminazione. Nonna Papera è veramente la nonna di Paperino o no? Nonna Papera è una bisnonna lontana di Paperino, nel senso che i rapporti familiari all'interno della famiglia dei Paperi sono alquanto vaghi e imprecisi. Non c'è mai una parentela sicura, un'origine sicura dei vari rami di questo albero che è cresciuto negli ultimi 80 anni, diciamo. Quindi lei non è sorella di Paperone, in fondo? Non è sorella di Paperone. Paperone ha due sorelle che vengono da... Lui è scozzese, viene dalla Scozia originariamente, però nonna Papera è una sua parente lontana, diciamo, più anziana di lui, una specie di capofamiglia attualmente. Avevo persino letto che Ciccio è addirittura parente di nonna Papera. So che è un problema che può lasciare anche insonni, ma è vero? Beh, insonni forse no, comunque sì, anche lui è una specie di pronipote. Un pronipote alla lontana, cugino alla seconda, diciamo, sia di Gastone che di Paperino. È tutta una grande famiglia i cui rami si intrecciano vagamente. Andrea, ma non trovi che, questa è la mia opinione, che Dan Rosa stia facendo un po' di confusione? Perché lui sta cercando di sistematizzare la famiglia dei Paperi, però alla fine crea delle cose che non esistono. Creano delle cose che non esistono, perché il suo è un lavoro filologico fatto rispetto al lavoro di Barks, che se non è il creatore proprio di tutto l'universo dei Paperi, è il creatore della gran parte dei personaggi che vediamo, quindi di Paperone, di Quico qua, forse di Quico qua neanche, insomma, è quello che comunque li ha portati a maturità. Don Rosa ha cercato con un lavoro filologico a volte un po' freddo di intrecciare delle parentele che in realtà poi nella gestione italiana di questi personaggi sono completamente... diverso. Ecco, a proposito, quanto cambia la gestione italiana di nonna Papera, mettiamo, da quella americana? È molto diversa la nonna Papera in Italia? Beh, il personaggio naturalmente rimane lo stesso, poi naturalmente l'origine culturale del personaggio cambia, perché nell'immaginario americano, soprattutto di quegli anni, nonna Papera è la classica donna pioniera, una donna capofamiglia di queste famiglie di coloni che colonizzavano, quindi la donna di campagna, rude, abituata al lavoro di fattoria, di famiglia. Qui è diventata, nella versione italiana, è diventata una specie di vecchia consigliera saggia e un po' a volte un po' folle, che vive ai margini della società, diciamo, cittadina urbanizzata, dove vivono gli altri Paperi. Ecco. Naturalmente ogni personaggio ha un'origine diversa, che poi in Italia è stata a volte, se non stravolta, molto cambiata. Ma tu ci andresti in vacanza da nonna Papera, se tu avessi una nonna così? Anche solo per il menù. In effetti fa sempre queste torte. Senti, Andrea, grazie tanto. Non è che ci hai chiarito le idee, ma proprio perché la materia è molto complessa. È complessa. E purtroppo è così. Grazie comunque. Figurati. Ciao.